sta cercando quella che c'è salendo a via Carlo Felice, sì, a 1.41, 4.25. Ui ui, dove andiamo a finire? Se non stai a controllare i prezzi, ui ui. Io ne metto sempre 10 euro, quando capita 10 euro, no, a volte 5 euro, tanto più si trovano le bombe. No, io ne metto 10 euro per il semplice motivo che faccio il pieno di gas, e a me la benzina mi serve solo esclusivamente per mettere in moto la macchina. E te lo so, è andata a te. Beh, a te che c'è la macchina a gas, e su quello lo risparmio. Ehi, alla grande, se tu pensi che se mettevo 50 euro, adesso che è aumentata anche di più, al mese, ma 50 euro alla settimana per scendere e salire al lavoro, io lavoro a produttori, quindi, e col gas ne metto 28 euro alla settimana. Ma c'è anche il costo di gas adesso, quello che costa di meno, accende molto a... La sacca, ce la presento? Ehi, sì, è un muro, sì, lì. Lì costa meno, lo so. E anche quello andando sulla strada ricordo di Usi, hai capito? Quel nuovo riformatore che hanno fatto, sì, andando sulla strada di Usi, di Inchiri, costa di meno anche lì la benzina. In realtà lo stai dicendo? No, allora sulla strada per andare a Inchiri, Uri, capito? Va di per dove passi. Io per andare in Tiruse posso passare anche dalle conce. Positivo, può passare dalle conce e andare sulla traccia giù in Tirida, quella zona lì. Va bene, tanto nel fornitore verde, capito? È tutto quanto verde. Allora è erge. La cosa costa di me. Anche uno, la benzina viene lì insieme. 1,2,18 e la prodotta c'è 1,2. Vabbè, 18 centesimi più che c'è quello là. Tu fai un pieno e poi mi dai la risposta, quanto risparmio. Non lo so, vabbè, la prodotta deve fare caso quasi 20 km, facendo la cassa. Io devo fare ugualmente per andare a lavorare, quindi a me mi conviene, però puoi prenderla anche come passeggiata, la domenica, prendi, vai, ti va una passeggiata e metti la benzina e ti dura per tutta la settimana. Allora, c'è una macchina mia qua in benzina, pieno a secco, quando è secco a secco, pieno qua, è 60 euro. Ti lanciai? Una casa. Esatto, sì sì. 60 euro. E per 50 anni la mia. Vabbè, adesso con l'aumento magari. Quanto è il cilindrato al tuo? 1.400. La mia 1.300. Guarda, non c'è la cilindrata, c'è la capacità dove si è battuta. No, se non stacca la... Io ce l'ho questa tappa del 2000, Ma che te l'ho visto? Dunque, la macchina c'ha più di 10 anni, no? E dunque, c'è il battuglio pieno pieno, la macchina mia, 60 euro. L'ho fatto perché l'ho fatto qua dentro. La settimana scorsa ne sono sceso a Udine. Non c'è bisogno del pieno per scendere a Udine. Vabbè, io ho tirato e sono andato a Coso a prendere la barca di mio fratello lì a Porto Guado, hai capito? Porto Guado? Sì, sì, lo so, io la conosco perché ci abita mio cognato ed è stata mia moglie. Tutto perciò a Porto Guado c'era la barca, bella lì, aveva accompagnati lì e loro sono ritornati con la barca Sardo, poi hanno fatto a Porto Guado, a Casa Sardo, quasi 14, e sono partiti alle 10 di notte, sono rientrati la mattina, e alle 9 e mezza erano già a Casa Sardo. Ha pagato, hanno fatto una bella tirata. quasi 14.000, 14 nodi qui girati, nodi girati, hanno un motore, non a vela, ha un motore. Ah, non si doveva essere un cazzo per il vento, io pensavo a vela. E vabbè, e comunque sono abiti a barca, va bene. Ah, c'è la passione, dico, c'è la passione della vela. Sì, c'è la passione della barca vela nel frattempo, e comunque abbiamo messo la benzina lì, no, il fornitore che c'è lì, quella che costa bene, allora, 20, 40, sono 70 litri di benzina, pagato neanche 80 euro. Consuma la mano, eh? Consuma? Un motore della barca vela? Ha 15 cavalli a vela. No, l'H, la sola barca vela, se si usa il motore piccolo. Vabbè. Dico l'H consuma. E consuma abbastanza. E la mia pure consuma bombe. Non mi sono piatto al gas, sotto una bomba. E lo so, beh, attenta, e lo so. Adesso guarda, forse non mi conviene perché mi hanno chiesto più di 2.000 euro per fare il canto a gas. No, 2.000 euro, 1.200 euro te l'ho fatto. Non so, 1.200 euro però, adesso non posso farlo. Poi diciamo che vai a fa. Stavo dicendo, adesso non lo posso fare perché sennò avrei già fatto, no? Vabbè no, io adesso non sto dicendo niente. Parlando solo di quanto io ho speso per farlo, l'ho fatto da Gavino lì a Pedalina. E diciamo che la macchina rende quasi poca benzina. Poca roba di differenza, ma poca poca. Esatto. Ma poi devi andare tu a Canica con l'auto, no? Devi andare alla motorizzazione dopo che ti piazzano il coso, ma tu io vai a Canica, ti fai vedere la matricola del serbatoio, loro scrivono la matricola, mettono il timbro, tutto qua a posto. Forse sì, vediamo se entro a lavorare faccio, se no la lascio così. Non è roba urgente, dai, se non fa molti chilometri, sono roba urgente, avanti. Vabbè, se non fa tantissimi chilometri non è roba urgente, no. Comunque io l'ho già vista passare con la CAE, con l'antenna attaccata. Già sei tu, dai, non mi sono sbagliato, se riesci a sentirmi. Sentite, Giuseppe. No. Ha detto che ti ha già visto Antonio passando con la cara, con l'antenna. Ma quando? Sì, stavattina. Tutto quando? Un giorno, devo fare gli abruzzi. Se ti ha visto l'altro giorno, il viaduca degli abruzzi. Il viaduca degli abruzzi? No. Stavo scendendo per via Napoli. Scendendo per via Napoli. Ah, ho capito. Stavo scendendo di Napoli, abita mio fratello, di Petrocchio, no? E dunque ho fatto tutta quanta via Lenza e ho girato per il coppia. A lui? Sì. A lui. Sento? No, no, il fratello. Abita vicino a casa. Ragazzo. A Montevurro. Ragazzo. Oh, Giuseppe, ma vicino alla casetta dove ci sono altre antenne? Positivo. E dove c'è la casa Vattene, allora? Ma, aspetta già, io dietro, nel mio palazzo ci sono, all'altra parte c'è un palazzo che hanno fatto da poco, giallo, all'altra parte ce n'è uno e due, le vedo io le antenne, ce ne sono due antenne lì che hanno il baracchino. Sono Vattene, sicuramente quelle ride. Cosa c'è? Una mantova e poi ci sono delle direttive e basta. Sì, è positivo. Poi io non sono pure di farlo. Non entra mai, non fa. E ogni tanto, tanto se non faccio già in est. Magari gli fa anche ascolto, non lo so solo. E Antonio dopo c'era la ruota modulata a casa. Cappa. E che zona è? Isolavo di Buti. Ah, Buti Buti, ho capito, da quando riesco a capito, con lui già ci conosciamo Antonio, a voglia. La conoscete? Per il lavoro o che cosa? Ci conosciamo anche per così normale, cioè tra il baracchino ci conosciamo abbastanza bene con Antonio. Se ti conosco ancora il ragazzino, venivo alla stazione a pigliare Augusto. Augusto te lo ricordi che era fuori da lui? Ehi. Io ero amico di Augusto, ti ricordi? Ah, io ti conosco da ragazzino proprio piccolino, ragazzino. Che appena fatto Augusto, lo sai? E Augusto si è laureato, ha un buon lavoro, eccetera, eccetera. Perché sapevo che... Ma non è il fratello del proprio tribunale, no? Sì, mi pare di sì. Perché mi sembra la loro lì in tribunale. Adesso, ma voi due non recuperate il cedere. Mi sa la prefettura, roba del genere, a fare i documenti e cose, ma... Lui è laureato. Anche la moglie si è laureata. È positivo, che prima abitavano, se mi ricordo bene, abitavano una traversa di via Valletta. No, con la sorella. Con la sorella, Quindi io, è capito, no, perché non volevo separare parte mia. Pensavo che abitava lì. Allora, in via Valletta ci abita il padre. Tetta invece abitava dietro dove abito io, però nel porto, due portoni più avanti. Venga, sta facendo scopo il bar all'angolo di Montecchio, a te, non lo so, allora l'angolo non ce n'è, abitava lì, la stessa via mia, capito? Non so se mi spiego, già c'era il bar di Roccoli, ma media di fa. C'è lì all'angolo, come dire, allora su di Via Pascoli, lì alla fine Via Pascoli, prima di Via Pascoli, là. Per girare, dopo c'era la pizzeria, lo ricordi quella pizzeria, la Sassarella, qua è. Ah, io non sto parlando di questa zona, tu stai parlando di Via Pascoli, sto parlando di Via Valdetta. Augusto abitava il padre in Via Valdetta, nel palazzo di Traulini. Invece la sorella abitava dietro, magari tu li visti via Valletta, perché da uno o dall'altro stava andando, non è che perché abita lui, capito? Capito. Ma adesso non lo vedo più Augusto. Ugo, te lo ricordi Augusto? Ugo? L'ha vinto. No, adesso non ce l'ho presente, ma portavo ma non è morto. Comunque questo è un bravo ragazzo, se non merita, perché ha sempre lavorato, si è sempre dato a fare. Io lo so, e non ha lavorato molto. Lo so. Io ho lavorato per studiare, perché probabilmente la famiglia non ce la fa, c'è, lo paga di studio. L'università se li ha pagati lavorando. Soia, il padre era collega del mio padre, no? Gabriele. Ti ha pagato, non so. Queste cose lo sapevo, no? Perciò. Soia. E io che tuo padre fosse trandeno, lo sapevo. Sapevo che aveva un allevamento di animali. Sì, anche i maiali, avevamo la campagna di San Giovanni. Dunque, c'erano i maiali, le pecore, che ha pagato. E a volte ci fermavamo a parlare, quindi ce la raccontavo queste cose. Via, casino, è morto lui, era tutto quanto. Ma allora, bene, bene, adesso la stazione si è vuota, ormai le cose sono cambiate lì, non capisco. Infatti si prendono mesi con matti, treni che hanno in pizza, Treni, quali treni? Quelli che non ci sono. Manda a casa di mezzo più buoni 4 ore, treno del Far West. Ecco, per me, Dac, scendo con la sua, il fratello, e poi ci sentiamo. parliamo dopo, dai. Ehi, non te lo ripeto. Tutte le leggi da internet, sono andato su internet, certo, le leggi, io ho tutte sta un po', come mi hanno detto che non si disturbava, non si poteva mettere, lega signora, articolo per articolo, se l'hanno letto, non vedi tutti i condomini che mi hanno messo la firma. No, è perché altrimenti hanno dato conto di loro. Sì, sì, sì, c'è scritto articolo di legge, codice civile, eccetera, eccetera. In base all'articolo si dichiara che e poi ci sono tutte queste cose, le voci, praticamente che in certi casi ci sono quello che devi fare tu e quello che devi far installare per l'antenna da un tecnico che ti deve rilasciare tutto per legge così. Attenzione, canale 21, se ascoltate l'Italia, Nord Sardegna che chiama. Ciao, chiamato già. Aspettate, attenzione, attenzione se ascoltate l'Italia, Nord Sardegna, stasera c'è la medica. Ma mi sembrava qualcuno che ti chiamasse, ha detto Gianni. Mucha propagación. mia condizione di lavoro. Sta a tempo 940 antenna verticale solarco una potente già. Mia condizione di lavoro, oro. È Galaxy Saturn Echo, parecchio americano. Verticale Mantova 5, verticale Mantova 5, K. Saluto mio hermano a Cancun, a coesione locale. Buonas tardes, buonas noches. Quanti canta? Non c'è più. Non c'è per l'ascolto. Ancora in macchina, se non va il freddo. No, non c'è nel freddo in macchina, sta tranquillo, cioè. Adesso come scendo ci sarà quel tanto di quel piccello, porca puttana. Giuseppe, allora sei in compagnia. Se non è freddo sei in compagnia. No, sono solo, stai tranquillo. Sono solo, solo, solo vento. Meglio solo che mi accompagnati, direi. Meglio solo che mi accompagnati. Oia, per carità, ma chi c'era dietro? Non ho capito bene chi era quello della Spagna. Era uno spagnolo, uno dell'Andalusia. Armando. No, Armando, quindi l'amico. Ma chi era? Non me l'attimo, te l'ha detto. Sì, me l'ha detto, ma era tutto un programma, era un attimo. Aspetta, si chiamava... non lo ricordo più. Me l'ha detto, ma non me l'ha mente, la finita. Alfa Tango, non so come. Capito. Oh, yeah. E beh, tu? La saluta! Ha già attaccato l'altro apparato, ha già attaccato. Mi è entrato un gordo, il mio vicino di casa. E ma adesso quelli stavano facendo tremulare tutto il lampadario. Tremulare! Io sono fatto tremulare, sono fatto ponente. Già lo sai, già. E ne lo so anche voi. Come state mangiando il latte? Sto mangiando il latte con i biscotti. Mamma mia, che città di stomaco fuori, mamma mia. A me non mi fa fatto nulla. Mamma, ma sei qua, lo sai tu? No, io non si vedo, non so con più, anche ho messo l'indirizzo del tabacchino. Ma cosa c'ho, Falmo, i biscotti? Biscotti, frullini, che ci vuole me? Io lo so, non facciamo un plasmo. No, di chi dica... sai che so buone, chi si dice rosti, chi si dolciando, chi si so buone davvero. Io lo so, quelli di rosti, quelli che costano il pacco a 1 euro. No, sembra così, ma sono veramente buone, sono. Al contrario di quello che si dice. Ah, sono buone, che cazzo. Guai a avere biscotti io, cazzo. Altro che il latte, da un latte non lo posso mangiare, ma nel caffè, cazzo, porca puttana. Comunque, buonasera Luca. Ciao a tutti, buonasera, cara. Ciao Luca. Ciao Gianni, ciao Antonio, capa. Ciao Luca. Quando che tu mi ascolti è... Luca, se ci fosse stato ancora il diario, l'avremmo sentito. Ho capito. Gianni. Aspetta, ma Luca, dov'è? Sorto a orecchio, Ho detto, se ci fosse stato ancora il diario, l'avremmo scritto. Ah, capo, vabbè. Purtroppo non c'è più. Cava. Ti ascolto Giuseppe, tranquillo, guarda, sperando che tu mi ascolti a me, cara. Io ti ascolto bene, avanza 300, ma arriva a 9.30 qua, cara. Stavano piano lì, 5 quarti, non di più, altri 10. Spegni quella questione che c'hai acceso, o Luca. Già lo sa, io non c'ho niente io qua. Con questo lì già non c'ho nulla. E l'apparato? E l'apparato, una volta che c'è, lì c'è l'elicottero amplificato, l'apparato amplificato, anzi io sto uscendo con 5 watt, senza niente. Vuol dire che sei molto vicino anche, sicuramente sei vicino a lui, perché ti sta arrivando così forte. E vabbè, lui abita al monte, dai, è zona monte, Chiagnani, io le arrivo qua a 9.30, eh. Non è che hai lo sminterente molto generoso, Giuseppe? Cos'è che ciò? Lo smitter un bel generoso. No, negativo. Negativo. Perché qua arriva, Hendler arriva a 9.30. Io ascolto la guida generosa, là. Sicuramente. E vabbè, comunque. Cazzo, quello che ha fatto, un bel cazzo di merda, amici a te. Cioè, tu non ti fidi a giocare a... con due carte buone e poi ti fottono. Mannaggia. Prova non per te, non capire male. Non è per te che l'ho detto, perché poco fa lui era via Torino e gli arrivavamo 9.33. Vedi, questo qua è l'altro baracchino, Giuseppe. Ah, l'altro, Hai capito? Sì, questo qua è l'altro, quello era 48. Ho capito, dai cazzo, ma arrivi forte. Questa qua ci ha messo lo comunicatore. Fa attenzione, questo è il finale che ho cambiato. E il microfono a tavola è l'MQ4. K. Per quello ma quanti forti qua Luca già lo sai tu che io ho fatto quella questione là assieme a Pomponio e ma c'ho solo quella roba là che gli ha fatto, no? Sta ma sto scherzando, sto qua con la radio Siria cosa era 48 la radio Siria che già li conosce bene K. Già l'ho visto il giorno. Cazzo. Già fuggirà. Luca. Fuggirà. Sì. Dimmi. No, ti ha chiamato Giuseppe. Dimmi Giuseppe. Male, ce l'hai sentito. Negativo, oggi no. Io sì. Già un paio di giorni non si può sentire questo morto, la mazza ne ha accetta. Sarà morto. Titolai già. Cappa. Ma quando stasera? Con pranzo. Allora non sta lavorando. E poi di domenica. No, oggi è lunedì, no, è domenica. Ah, è vero, oggi è lunedì mica, figurisco. E vabbè, ma siccome sono a riposo, per me è come la domenica. Ah, ecco. Per carità. No, perché dovevamo fare un lavoro con Pomponio e non si è fatto sentire, ma tenia scelta. Lavoro di antenna a casa? No, a parte quello, no, dovevamo fare tutto quanto il collegamento, togliere dalla magnetica e piantarlo direttamente sulla capota, capito? Fallì. Non faremo il buco del tongo quello che c'è dall'altro radio, no? E io lo faccio lì, capito? L'antenna dell'autoradio ce la metti sotto il cielo della macchina e funziona lo stesso. Guarda così. Come facciamo tutti? Funziona lo stesso anche bene. Positivo. E lì li metto l'antenna del baracchino. Appaga, poi dove ce l'hai? Davanti o dietro? Davanti. Va bene. Ma non avevo perché la piatta di Giuseppe di piatta l'antenna come ti si tocca, l'antenna che funge bene, non ci pensi più. Lo so, appunto perciò, questa è provvisoria, al limite, o la tengo per casa, per usarlo per casa e mi pianterò un altro baracchino, hai capito, a casa e quello mi dovrebbe dare Pomponio, vediamo un po' cosa ne esce fuori. No, ma questo qui si sente bene, non pensare che esci male, perché la radio è buona. Lo so, ma questo lo tengo in macchina, hai capito? A casa io parlo a casa, adesso se riesco a procurarmi i soldi, piatto faccio tutto quanto a casa, capito? E poi te lo faccio vedere come esco. Va bene, non c'è problema. Io sono contento. Tanto questa settimana arriva la risposta di Cagliari perché ha denunciato il condominio. Davvero? Sì, già. Loro non vogliono farmi piantare l'antenna sul tetto. Io gli ho detto, mi interessante quello che riesce da Cagliari, poi vediamo. Ma tu la concessione ce l'hai? Sì, ce l'ho. Ma rinnovata? No, ho fatto tutto quanto da capo. Ho fatto versamenti, il numero della matricola del baracchino, tutto quanto. E mi è arrivato male, ce lo dice, una volta che a Cagliari sanno che c'è il versamento, le ha mandato il versamento, tutto sta con la ricevuta di ritorno, lei può modulare tranquillo. E mi ha dato tutto a Cagliari, hai fatto bene. La legge, c'è una legge, qui c'è tutto stampato, Giuseppe. Io lo so, no, non mi ha detto che adesso si forma anche questo condominio e poi li spediscono loro tramite via fax, la legge del condominio. E poi vediamo cosa ne esce fuori. Ma tu sei andato alle poste di qua di Sassa? Io sono andato alle poste di Sassa, ho fatto tutto quanto, il foglio, tutto quanto, il versamento, tutto quanto di 12 euro, c'è stato giù a Cagliari, tutto qua, poi io sono sceso a Cagliari, direttamente a Cagliari. Ma non c'era bisogno di fare quella prassi. Questa qualche andassi di essere scomposta da Sassa che ti facevano fare il marito. A me mi hanno detto che si provi a non farle la piazzare. Io gli ho detto che non mi volevano far piazzare una tetta. Dice adesso cerchi quelle buone e poi che si provi un oro a dire di no e vediamo. No, io gli ho detto gentilmente. Io ho parlato direttamente con il condominio, il proprio economia, la casa della ritirata. Sono state le soli del condominio, li volete. Però a farmi piazzare la roba che a me mi interessa, che è un mio diritto, non volete. Ho detto, adesso vedete voi con Cagliari. È partita la denuncia adesso. Beh, adesso vediamo cosa rifanno, perché c'è tanta gente, c'è quello magari che non ti fa passare perché devi passare a casa sua per salire sul tetto, e c'è una legge che c'è scritto praticamente che è obbligato a farlo, se no va via penale e anche multe esorbitanti. Sì, ma non ho capito io, l'ultimo piano sulle cose dopo devo piantare io l'antenna, posso salire solo io, capito? Nel mio posto, nel mio poggiolo. Proprietà vostra? Proprietà nostra, privata. E allora perché lo devi chiedere al condominio? Che lui se non è facciaccia, nel senso che non si è facciaccia. Non è facciaccia, io ce l'ho dietro, capito? Io ce l'ho dietro, la mia camera è l'ultima in fondo. Dunque, a me, io ho ripiato le tappe, un palo di 2 metri, 3 metri, e il cavo, e l'antenna. E lui, loro non è. Per questo dice che io disturbo tutto quanto, le televisioni, quanto mai dove stanno a dire, quanto sono state, ho detto. Tanto ho detto, con questa cosa qua del decoro non disturba nessuno. Poi se volete voi che io non le piatto, perché siete contrari nel condominio, accetto le cose, poi se no lo vedremo tramite Cagliari. Fatto. Interessante che loro facciano quello che devono fare, vedo che poi si cagano che fanno fare tutto, perché anche a me il mio amministratore, che tra l'altro è un amministratore esterno, mi ha detto, gli ho detto che ricevono le chiavi del tetto perché devo piazzare un'antenna, non ho detto quale. E che di che antenna si tratta, mi ha detto. Detto l'antenna della 27. No, per carità, quella lì io non gliela faccio piazzare perché disturba subito i televisori, questo e quell'altro. Detto, me la fa piazzare, e questo lo dice lei che non me la fa piazzare, io sono proprietario, come sono proprietario di tutti gli altri, c'ho una parte del tetto, appartiene a me, quindi io faccio ciò che voglio della mia parte, non è come dice lì, e io le faccio vedere la legge, a un certo punto gli ho portato la legge e l'ho sbattuta in faccia, lui si è ricreduto, mi ha detto, ma la chiave se non sono d'accordo di altri condomini io non gliela posso dare, deve farsi mettere la firma da tutti, siccome c'è quello che abita in mansarda, gli ho detto se per cortesia mi prestava la chiave che dovevo salire e c'era un problema all'antenna, mi ha prestato la chiave, mi ha giocato lo doppio e mi ha piazzato l'antenna. Va bene, al fatto che dove abito io sul tetto detto, per forza devo chiamare la scala aerea, e dunque ecco cos'è il problema, hai capito? Che la scala aerea non c'è un punto per salire? No, negativo, no, ma non hanno fatto il palazzo, non hanno fatto, non ci sono ricordati a passare, fare il coso, il buco per salire sul tetto, hai capito? Non è possibile, dai. Così già, è così. E il palazzo hanno costruito loro, hanno pensato di fare questa cosa per entrare sul tetto, capito? Ma è atterrato? Ah? Come è atterrato? Atterrato in che senso? Non è a tegola. No, non è a tegola. Non è a tegola, capito, non è a tegola, ma solo non c'è, per forza, perché se si rovescia l'antenna, devi per forza chiamare la scala aerea, ha capito? Cazzo ne è così, e altri come metterti un terrazzo tuo, metterti un tubo di quelli per gli scopi, e salirà così l'antenna. Faccio un tubo di 3 metri, 4 metri o 8 metri e tanto pure piatto l'antenna. Solo che se ho messo 8 metri ci devo mettere i tiranti. Ci metterò i tiranti e tanto me la spiego. È una mano contenuta a me. E loro o una maniera o l'altra devo piantarmi l'antenna lì, ho capito. Sai quanto ti costa una scala di legante curso? Lo so, solo per chiamare la scala, poi ho intorno alle 200 euro. Fate un conto. Via, e poi ci salite lì. Ah? Ci salite sulla scala. Ci saliamo, ma adesso io farò come ce l'ha Pompuglio, la farò come lui ce l'ha, io l'ho vista la scala, è tipo Manciata, no? Tu ce l'ha pure, capito? Con questa antenna, tipo la mia, a canarita e sta uscendo bene. Lo so. Ma per prendere con l'antenna, quando avrei su, dice un'antenna, si chiama Enrico, non c'ha radiali, e spara bene. Non so quanto costa quella lì. Lo so, mi pare 32 euro, una cosa così. 15 euro costa, non di più, mi sembra che costi un 38 euro, non 34, non me lo ricordo bene. E senza radiali, non è molto ingombrante, cioè, però spara un bel, molto forte come antenna. Vabbè, ma anche se ci costa 40 euro, 50 euro, non me lo fotte nulla, l'importanza è che a me non me ne frega niente, che riesca a avere il mio baracchino a casa e almeno non devo stare qua in macchina, capito? Da dove sei lì, a Montepurro, io mi fare voce, quindi sai, basta, cioè va bene, poi magari se vuoi alterarti, pone appena un aiutino e via, ma non è necessario. No, è negativo, non ho capito che non c'ho neanche bisogno di fare i buchi lì, hai capito, nel muro e tutto quanto. Li piatto lì, li piatto con una tappa a muro e faccio due buchi che non li trappano e li sto piattando questa antenna. Oggi è molto buona già. E allora se l'ha piazzato, so che se l'ha smontata una persona è andata alla grande, proprio dal primo momento. Io ce l'ho e sono in attesa di... Ok, sono in attesa di montarla. Eppure non ho capito di che razziate, voi lasciate perdere. Poi il tetto è tutto messo male, non si può agire. Altrimenti l'avrei già montata. Vabbè, ma dove lo vedo, lo sai? Su, devo metterlo. Io l'ho avuto la cosa di provarla. Ben fusante. È una bomba, Solo che è grande. Cioè, no, non la posso punire più in facciata. Se è stato un secondo piano, sì. Chiappa, avanti già. Capito, dice la fusata. Torino, io ho capito. Adesso vediamo, quando ho i soldi, mi prendo questa antenna e vediamo un po' con Alessio, con quella di piazzarla, vediamo un po' cosa ne c'è fuori. Non da Torino, Torino è GPC, Fusaro. Fusaro. Ma problema, è Antonello, non è Torino. È da Torino, Torino, si chiama. Torino, Antonello. Meno male. Vabbè, mi sono confuso, là, perché adesso ho abituato a comprare la roba quando era una vecchia cosa, a Torino, al CBC. Vabbè. A Torino è un po' caruccio. Ma una cosa è calamita da 30, quelle calamite corali da 30, cazzo, 35 euro. Cazzo, mi ha detto, ma voi state dicendo fuori testa veramente. Sì, vai a chiedere quanto costerà la 48. Ah, che cosa, caramita? No, apparato, la 48. C'è su internet che costa 160, lo giorno vende 2,20. Sì, già ho capito, già lo so. E per quello che io a lui non gli prendo più niente, perché una volta accanto, quanto è conto il coso per lei, me l'ha fatto pagare 2 euro del coso per appoggiare il microfono. Una volta ci si regalavano, cazzo, quella roba lì. Se lo dicevamo te l'avrei dato lì. Già. Adesso me lo dice, cazzo, non c'è perso. Tu non me l'hai chiesto, ma se no, ne avevo 4 o 5 conflitti e con tutto. Me la bustina ancora come... Oria, per carità. Ma i spagnoli, andati via, insomma. Mi hanno mandato via io, ho detto che c'avevo questo locale qua e non potevo parlare con lui. Sì, vabbè dai. Oh, signori, vi saluto a tutti. Buonanotte, ci sentiamo tutte le prossimine. Già, se c'è la risposta a quella questione là, vedi un po', mi informi oppure ci troviamo in persona. E non ti preoccupare, Giuseppe, già te lo faccio sapere, stai tranquillo. Ok, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Avanti. Buonanotte, Giuseppe, ci sentiamo. Ragazzi, io vedo una soluzione buona già, visto che lui non ha il posto. Io capo, come la vuole passare lui è un casino nero, per radiare. E lui che va vinto, perché non c'ha radiale, viene meglio, capito? È l'unica quella, sì. No, ma si può fare a lunghi senza infilarlo nel palmo e nella staffa ancora. Il palo lo piega appena, allunghi il palo, sino a far uscire il radiale fuori da, diciamo, dal limite del tetto. E poi una volta che sono usciti fuori il radiale lo agganci alla cosa, la staffa e al piano. Sì, ma è un casino nero lavorare così. Perché l'unica è tutto uno e via. E va, tanto l'ha provata, ho sentito tutti i pagamenti che l'ha provata con una persona e ha reso i conti, pure qua arriva molto forte. Quindi ho visto che va la grande. Io conosco solo Archimede che ce l'ha a Sassari, poi non so di altra gente, non conosco nessun altro che ce l'ha. Sono io, non fa. Comunque anche il capo da Archimede arriva molto forte qua. E vabbè, c'è anche la vicinanza, via Pascoli, là. Ah, mi fa bene tutta la città. Guarda, io sono una volta capitato con la strada da un moto che di scendere anche a Pratagnese, arrivare a fondo scala, così. Una cosa, arrivavano tutti forti. Anche a Pratagnese è una buona zona, Chiappa. Eventualmente, cioè, va alla grande. Già va. Non te la carrega, magari lontana andrà molto meno, ma in città va benissimo. Io ti chiudi i nomi, magari, secondo che punto sei, questo è il palazzo tuo, le metti, magari può cambiare di un punto, ma non di più. Mi pare mi l'abbia chiusa in riserva. Infatti, ti sto dicendo, ce le mettiamo, noi sto facendo, ce le mettiamo a confronto. Secondo me ci fa un di più purtroppo, in quel punto lì. Se le mettiamo a confronto, guarda, sono sicuro che non è che cambi molto. Magari potrebbe cambiare qualcosa di ricezione, ma una magari fa una maniera o dall'altra, però alla fine siamo lì. L'altro giorno c'era uno nuovo di Porto Torres, ero al quadrato io. Stavo ascoltando, ma non lo sentivo per niente. Nulla, proprio nulla, nemmeno un bisbiglio, nulla. Mi sono spostato di mezzo metro e tu Santiago Nofe mi arrivava. Quindi che succede? Non dico Santiago 4, ma Santiago 9, da non sentirlo nulla Santiago 9, te ne immagini, ci dovrà essere qualche albero, qualche cosa che fa parte. Sicuramente così, seconda volta gli ostacoli micidiali. Adesso ho convinto una cosa già, che se tu poni una, poni là e attacchi veloce là, non mi chiudi la pizza. La scommessa, quello che vuoi. Un giorno facciamo le prove con lui che è attaccato bene per noi, allo Smith. Se tu la dovresti montare nel tuo palazzo, lì dove, vicino alla tua, e a uno lo puoi ingannare, prima attacchi una, poi attacchi l'altra, tu ci scommetto quello che vuoi e non se ne accorge. Beh, lo so. Diciamo che non fanno miracoli le antenne. Chiaro, perché poi alla fine, quando c'è una certa altezza, una certa cosa, non te ne accorgeresti mai, perché? Perché se, soprattutto quando stai dando potenza, no? Lui lascia perdere. Guarda, come so quello che vuoi, anche in lontananza. Se uno, secondo me non se ne accorge. No, in lontananza sì, tanto perché a 5 ottavi uno che c'ha anche più ricezione, vabbè, ma in lontananza te ne accorgi, una volta che te ne accorgi. Ho già appurato, quelle lì sono un quarto d'onda. Sì, non ti grigi, c'è imbarazzare, e poi quello che lo contenuto è. Quello che conta, cioè, quando sono antenne grandi soprattutto, guarda, fidati, è con il contenuto quello che conta, è quello il punto. Ma comunque potrebbe cambiare di qualche di più, ma però alla fine arrivi lo stesso. Certo che arrivi, io con la gran fine arrivo a Falghero 9.5, a casa di mamma. Come di qua la porta di Falghero sono? Ma la durata Colombo è buona, ma per Falghero ce l'ha di fronte. Vediamo. Poi proprio dove ero io, te l'ho detto, dove abitavo, proprio dove c'era il numero 6 dell'Anco. Lì ti veniva tutto di fronte a Monte Ora, Alghero, tutto qua di fronte ci avevi. Ecco, pagata. Così. E quando ha attaccato chissà cosa, che arrivi. Vabbè, quello lì, il Giambo si cribava tutti i suoi manettoni. Diciamo poi l'avevo attaccato quando ci avevo la mantova, l'altra mantova che c'aveva. Ah, cioè da dove è montata la mantova là? Prima la Grand Prix, poi ho messo la mantova e poi me ne ha fatto togliere tutto mia madre perché c'era uno del palazzo che rompeva le scarpe. Che abbiamo solo tu, quando attaccavi? Ma io attaccavo di notte, dopo mezzanotte e mezzo, io stavo a che sino alle 7 di mattina, tu non sai prima com'era. Garba, non devi gare quasi. No, gare no, io non ho mai fatto competizione, ma mi piaceva sentirmi dire che arrivavo bene, a bomba. Garba. scala attaccato da farne via, a fondo scala. Che dipende dove. Se qua siamo anche per Tucci. Allora chi era? Quanto arrivava? Non me ne ricordo tanto, io mi ricordo 9,5 per un liscio. Ma con lineare non lo so. Ma lineare parlavi con Marisi, parlavi con Accorsica, insomma un po' di busti. Allora c'era un po' di gente frequentata la notte, non era così, capito? Ma c'erano un po' di città che di cose di posti tipo la Corsica, sentivi anche paesi, io no, ma c'era gente che sentiva anche parlava con Urbia, tipo Walter. Che appaia a fare? Ma sai che cazzo dai, micidiale, ma canto la diretta a fare. È micidiale, mi sono cazzo uno vicino, le mando la baracchina in tizio. Beh, va 600. Non ve la parecchio, te l'attaccavo, lui a poco si cazzava con la sciopera. Cazzo già, ma basta che su cose, tu la che su microfono, cazzo mi si ammazza, non sento più nessuno. Abbattimenti faccio. A tua sciopera. Vicinata? No, via Grazia delle D'Arpa. Più su della passeria, molto più su, quasi arrivate alla chiesa. Beh, c'erano quelle casette prima che poi hanno demolito là. Chiappa, quindi è barreata. Sì, si esplotava tutti i canali. C'avevo legging quinto, il giambo e la manto. Adesso non mi ricordo se era la 5 o la 1, boh, non lo ricordo più. Chiappa. Che sta maturata la rete della scuola. Avanti chi vuole entrare. Positivo il capo del Roger. Non so se riusciti a ascoltarmi, ecco. Basso basso ti ascolto per qua. Tranquillo, adesso come vanno tutte le leggi. Addirittura, nobile, e chi c'è qua? Ma siamo rimasti a Antuna, è entrato Giuseppe, è entrato Capri 2 poco fa, insomma c'era un po' di gente, tanti saluti da Capri 2. Positivo, ora cambia, dai. Sono arrivato troppo tardi allora. Vabbè, comunque, poi è entrato, come si chiama, Tigrotto, come si chiama, Leoncino. Leoncino, e vabbè, uno dei due. Positivo il capo Roger, dai, fatelo la buona, ci ascoltiamo, ciao. Ciao per pace, una benedizione, pure per oggi ti sei dato. Dimenticavo, c'era l'Andalusia come propagazione stasera. L'Andalusia? E l'America. Ma vabbè, positivo più che caparrocchio. Ciao a tutti, statemi bene. Un bacio ai bambini. Vabbè, più di quanto. A 3,80, eh? Buonanotte. No, no, sono attaccato a 9,20. Ciao, buonanotte. Avanti, niente. Tu mando un messaggio, vediamo se lo capisci. Già lo capisci, perché lo scrivo chiaro chiaro. Basta che non scrivi giro un difficile. Tu credi con quel tempo un po' cattenti, dopo te lo guardi con calma. Ah, soffrire mica. Pensavo al cielo. Pensavo al cellulare. Negativo. Oggi mi è arrivata la promozione, 50 minuti gratis ogni giorno. Non tutti ho col Vodafone. con tutti quanti mi pare. È già buono. Ma non sono sicuro, anche non me lo ricordo, non voglio dire di cazzate. Comunque, per un mese 50 minuti gratis. Chiappa. È buono. Pure a me ogni tanto mi mandano le promozioni, cosa, ma non le considero. La Wind me le manda. Perché non le consideri? Oh, che non devo stare a prezzo con le cose. Sento io non è che telefono tantissimo. No, io li faccio al mese, invece di rinnovarlo lì dico che tu di almeno, boh, basta. E se non rinnovi devi pagare. Cosa ha visto? La promozione? No, la promozione finisce alla fine del mese, no? Poi automaticamente se tu non la disdici te la mettono normale, ti fanno pagare. Ma se ne vale la pena, conviene lasciarla. È una cazzata poi. No, non le lascio. Non mi conviene. O te l'aumento, te lo fanno, ti fanno un bel di cazzata. Lo so, usavo la suoneria una volta che mi piaceva, c'era scritto si paga tanto per questa suoneria, ok, prendo e faccio la suoneria, me le detraggono dal telefono, poi ogni settimana me ne mettevano una nuova e mi ritraeva nessuno, ci senza dargli nessun permesso. Sai il casino che ho dovuto fare per la tua, bravo, ui. Praticamente non era Omnitel, ma era un'altra ditta che faceva solo di queste cose. Non dipendeva da io, ti ho chiamato all'Omnitel e mi hanno detto, la Vodafone mi hanno detto di rivolgermi a questa ditta. Fate il numero, per fortuna li ho trovati, li ho mandato mai più, perché sennò stavo facendo la denuncia alla Conacona. Ma quelle sono suonerie, non le devi mai accettare. Tu devi accettare le promozioni che ti dà la foto con quelle le chiamate e cose. Ma io quelle le accetto, disdico solo quando te l'ho detto cosa faccio. Me la sfrutto tutto il mese e poi prendo e disdico. Che pagata. Così che bisogna fare. Cioè, molte volte uno lo rinnova, magari cosa ne so, 3 euro al mese se ne frega, perché magari è poco e risparmia. No, tanti non è che faccio tutte queste telefonate, ma... Gatto, io non ne ho mai fatto una, ti dico la verità. No, io tutte. Gatto. Oh, vabbè, prima qualcosa la facevo, ma allora non ho tutti niente. A pagare. E vabbè, non è che se non ti hanno fatti a te, però loro te li mandano, è interessante che ti... Ma tu sei Wind? Ah. Cazzo, sai quanto mi cuccia ogni volta che parlo con te? Il dubbio. No, non stai dicendo niente. Se ha una tariffa tranquilla, costa quanto parli con un volo, eccetera, eccetera. Non ti metti foto a foto. Perché mi sono sempre trovato bene così? Beh, non vi la nessuno Wind, solo i continentali tu usano per Wind, che certi posti non prende. Dici tu? Vabbè, io in qualsiasi posto che sono andato mi ha sempre funzionato bene. Ah, buon contento tu. Ma io... A me mi è sempre funzionato. Bene, ma non bene, no, benissimo. Non siamo più ai tempi di prima. Prima era così, allora funzionava bene. Beh, ti conviene. No, non mi trovo bene, mi trovo benissimo. No, ma dico, ti conviene come prezzi, come cosa? Sì, come prezzo di tarifario è cosa che mi conviene. No, ma mi trovo bene anche sulle ricariche, su tutto, guarda. Va bene. Perché quindi c'erano parecchia gente. Tu che magari avessi tutta la gente a volo, ma quindi ce l'ha parecchia gente, ce l'ha. Soprattutto li usano molto perché vanno molto bene in quei... nel computer con la penne, sono una bomba, insomma. Ciao, io. Io mi sono Vodafone perché la maggior parte delle mie amicizie, mia moglie, tutti quanti c'erano Vodafone, mia figlia, insomma sono tutti Vodafone, quindi io i numeri che faccio di più, mi sono messo Vodafone per quello, prima avevo Tim. Tim non mi piace. No, a me nessun'altra, tranne la Unite, perché a me mi piace un po' la Unite. Uno perché ti dà anche tutte queste promozioni, cose, e poi c'è cioè, Siria, sì, quando li chiami Franco. Io Vodafone ce l'ho avuto, ce l'ho però. Mi è sempre piaciuta la Wind a me, com'è? Non lo so. Io non pensavo di cose, modo di pensare. Un modo di pensare, non mi sono trovato bene lì e rimango lì, no, non è più di Giambano. Dicendo questo che stai facendo, stai pensando, no? Stai pensando che va meglio questo. Io penso che la mia convenienza, siccome tutti gli amici c'hanno Omnitel, se le mie amiche c'hanno Omnitel, quindi io cosa potevo fare? Team o Wind? Ho fatto Omnitel. Ciao, vola con... E tutti sono un po'... Dunque, le società che stanno andando più bene sono quelle due. La vola con la Wind perché la Team... Non vede gente, ce la butta sullo stomaco. E quindi sono le aziende più forti, insomma. La Tim ne ha clienti tuttora, tuttora ne ha molti, ma è stata sullo stomaco a parecchia gente. Io ce l'ho un Tim e un Mister a casa, buff. Brava. La Tim è nuda, qua l'abbiamo eliminata, che non fa dirmi... Vabbè, dai. Io mi sono con Drummo e tanto ci sentiamo. Tengono buonanotte. Buonanotte anche in ascolto. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, dai, mando un messaggio, dai. Te lo vedrai con comodo. Prima lo sta usando mia moglie adesso, dai. Sta facendo roba di ordine. E quindi... Diciamo che... A domani a guardarlo, non lo guardo con più calma. Perché di fra gli ultimi tanto parla con le amiche, quindi non è la vicina. Allora c'è Skype? No, no, in chat. Gappa. Ok, dai, già va bene. Per farti capire una cosa. Vabbè, buonanotte, dai, ciao. Buonanotte, dai, ciao. Ciao. Luca. Che me? Sa, e te bada, no? Fammi! Ascolta, ascolta, come se facciamo roba al computer. Non posso riesco a farlo partire. Cioè praticamente è stato un programma, apro Facebook me lo apre, apro il poker e mi si chiama tutto. Com'è che sia? Prenditi, scaricati Google Drone. Ah vai, poi ci diamo in culo. Io l'ho messo, ed è una bomba. Ah vai, lascia il telefono tu. Fa come una bestia. Io Explorer. Google Chrome. No, non l'ho letto. Io non vado così, però ci metto quello. Lui. Sei convinto? Figati. Figati anche tu. Ma non me l'hanno sconsigliato di metterlo. Non lo so. Niente che non comprendo il suo lugar. Io ce l'ho e dico che è una meraviglia. No, non mi posso lamentare fino adesso. Comunque non la metto anche tu. Chiappa. Ma io non c'è questo computer. Io vecchio. Che ti ha fatto qua? Lui, bussere direi, ti butti anni non miserere. Si deve stare bussando al muro, lo sai. Di mamma? No, a me. E chi? E già lo sai chi. Chi so, non so. Tutto si chiama Guraggi. Chi so? Si chiama Guraggi. Ah, perché sta bussando? Ma se ne trovano il computer perché? Oh, dice che il mio computer sia mio, che quello di mia sorella, di quello di Gioele, e quello di Papo, dice che noi andiamo a disturbare il computer. Se ma c'è nulla, niente, cioè, capo bussato. Via, per carità. Prima era appena della televisione, appena appena dello baracchino, aveva un computer, senza male un capo, non te la conto. Vicino a te. Poi aia, per carità. Avrei messo il capo alla vicina, cari. Dove strumenti, sono andati da pizzofona, Ciao Lula, ti saluto. Però lo stiamo disciubando, ok. Ciao, ciao, ciao.